Focus Economia di Sebastiano Barisoni. Sette minuti, ultima puntata di Focus Economia della settimana, ultima puntata prima del Natale, poi il programma tornerà il 26 di dicembre in una versione ridotta e speciale perché le borse sono chiuse, ci occuperemo di turismo ma anche di settore alimentare e poi invece la programmazione classica fino a inizio anno, fino al 6 gennaio sarà di un'ora il programma. Noi ci risentiremo il 26 di dicembre e poi invece e lì ci faremo anche gli auguri per l'anno nuovo. I temi di questa giornata economico-finanziaria. Allora, mentre le borse vanno a chiudere la settimana in maniera calma, cauta, più 0,16% Milano, mezzo punto di rialzo a Parigi, più 0,20% Francoforte, più 1% Londra e lo 0,40% di rialzo a Francoforte, di nuovo in tensione lo spread italiano, al di là delle polemiche su cui non voglio tornare, andate a rivedere, lo dico a chi scrive su Facebook con una certa protervia, andate a rivedere i dati, il 9 di novembre lo spread italiano tocca i 565, arriva al picco di 570 punti, poi uno va a vedere anche la chiusura, ma quello è il livello. Oggi siamo tornati e al di là del fatto, come molti scrivono, si tratta di un esercizio puramente speculativo, immaginare cosa sarebbe successo se ci fosse stato il precedente governo Berlusconi, non lo sa nessuno, non abbiamo la controprova storica, però quello che ho dato di fatto è che circa un'ora e mezza fa lo spread è volato di nuovo a 515 punti, cioè ha superato di nuovo la barriera dei 500 punti, siamo a un rendimento del BTP italiano a 10 anni oltre il 7%, il 7% di rendimento, siamo al 7,09, è una soglia critica, si diceva una volta oltre il 7% di rendimento hai difficoltà, un paese come l'Italia ha difficoltà a ripagare il suo debito, la Banca d'Italia per voce di Visco ha detto no, anche un 8% potremmo reggere, ma quello che è chiaro e che un livello del genere è insostenibile nel medio termine, continuiamo a ripeterlo, già con i rialzi che si sono registrati da maggio in poi, noi abbiamo pagato e stiamo pagando 8 miliardi di euro in più di interessi sul debito, più alto infatti il rendimento che devi offrire per emettere obbligazioni BTP o BOT e chiaramente più alto è quello che è il costo e l'interesse che paghi sul tuo debito, un po' come avviene per i privati e i cittadini, più alto è l'interesse che ti chiede la banca per prestarti i soldi e più tu ne hai uno svantaggio economico. Tra l'altro anche i depositi overnight delle banche presso la Banca Centrale Europea hanno raggiunto i massimi dal giugno del 2010, cioè le banche preferiscono parcheggiare i soldi overnight durante la notte dentro la cassaforte della Banca Centrale Europea pur di non prestarseli. E questo è uno dei segnali più forti dell'assenza di fiducia tra banche, nonostante l'operazione da 480 miliardi lanciata dalla Banca Centrale Europea, si preferisce lasciare i soldi nelle banche, praticamente ieri notte sono stati parcheggiati dentro la Banca Centrale Europea qualcosa come 347 miliardi contro i 260 miliardi del giorno prima. Vuol dire sostanzialmente 80, quasi 90 miliardi in più in una sola notte di soldi parcheggiati pur di non impiegarli, pur di non darli a famiglie e a imprese, ma anche a prestare tra banche, si preferisce metterli lì, almeno rendono pochissimo ma sono sicuri e poi uno li ritira. Tra l'altro i prestiti overnight sono diminuiti a 6 miliardi, l'ho comunicato alla Banca Centrale Europea. Di questo ci occuperemo poi. Due visioni sul 2012, una è quella degli astri, torna la nostra astrologa e come poteva mancare, e l'altra invece è quella di uno dei più famosi private bank, e quindi che lavorano nel settore private equity, che investono e comprano aziende e poi le gestiscono, nostro ospite già alcune volte, che ha sempre visioni abbastanza un poco ortodosse sul futuro. 349, dicevo, 238-6666 per gli sms. Rapidamente le altre notizie in breve. Chiaramente ricambio gli auguri che stanno arrivando da parte di molti ascoltatori, auguri a tutti voi, ma poi avremo modo anche di parlarne. Non sarà un 2012 facilissimo, così rispondo già ad alcuni sms. Le prospettive economiche sono tutte di stagnazione economica in Europa e recessione in Italia, però poi all'interno, a parte che si vive lo stesso adesso, un conto è essere seri e affrontare i problemi e un conto è pensare che insomma con lo spread si risolve, che lo spread sia l'unica ragione di vita, però insomma sarà un anno difficile, ve lo racconteremo anche l'anno prossimo facendo tutti i debiti scongiuri, ma già lo diceva ieri Sapelli, oggi vi torneremo sul tema. È probabile che poi all'interno dei singoli settori, delle singole attività produttive, delle singole categorie ci siano anche grosse differenze. Le filiere più produttive, quelle a maggior valore aggiunto, quelle più legate all'export, tutto sommato in un rallentamento pur complessivo non andranno, non dovrebbero andare così male. Oh, le notizie in breve dall'estero: l'oro in rialzo, 1612 dollari l'oncia, il petrolio 100 dollari secchi a New York. Natale amaro per la Barclays invece, investimenti, lo scrive oggi sulle 24 ore, investimenti sbagliati della banca britannica costeranno fino a mezzo miliardo di euro. Aveva scommesso la Barclays che il rame sarebbe tornato a salire banalmente sulle commodities e il rame invece ha perso quotazioni, la banca ci ha rimesso. Altri errori di valutazione riguardano anche le quotazioni di alluminio e nickel. I responsabili del settore, Ian McRae e Christian Saunders, si sono dimessi, sembra siano stati invitati a dimettersi molto caldamente, diciamo. L'Austria ha conservato il voto tripla A nel voto di Moody's, quindi il rating austriaco resta il più alto possibile. Dei depositi overnight parleremo tra un attimo. Ancora qualche notizia che arriva dall'Italia: le retribuzioni a novembre sono state ferme, più 1,5% su base annua, questo lo rileva l'Istat. La crescita delle retribuzioni a livello anno su anno è la più bassa dall'ottobre del 2010 e nell'ottobre del 2010 il dato era il più basso dal marzo del 99, quindi possiamo dire che dal marzo del 99, fatto salvo una volta, cioè l'ottobre del 2010, mai in questi 20 e passa anni, 22 anni, le retribuzioni erano cresciute così poco, più 1,5%. E infatti il divario salari-prezzi, cioè quanto cresce lo stipendio rispetto a quanto crescono i prezzi, aumento delle retribuzioni rispetto all'aumento dell'inflazione, è ai massimi, è un nuovo record dal 1997. Infatti a novembre hanno fatto le retribuzioni contrattuali più 1,5 orarie e l'inflazione ha fatto più 3,3 e quindi la differenza è sono 1,8 punti percentuali e ripeto, è il divario tra andamento dei salari e andamento dei prezzi più alto del 1997. Andiamo bene, proprio bene. E sarà anche un caso, lo dico come battuta, è crollata la fiducia dei consumatori italiani nel mese di dicembre, è al livello più basso dal 1996. E sarà anche effetto della manovra Monti, immagino che sia una manovra che tutti hanno percepito. Lasciamo stare il commento sulla manovra, quello che noi spesso abbiamo ricordato, Monti avrebbe dovuto avere maggior coraggio e fantasia per usare De Gregori, no? Tutti hanno capito che era una manovra eccezionale, straordinaria, perché il paese era sul baratro e quindi insomma, è difficile che con questa manovra la fiducia salga. Il livello più basso è 96 punti dal 96 punti a 91,6 punti. Mentre il divario salari-prezzi tocca un nuovo record, ahimè, le retribuzioni sono ferme, la fiducia cala, crolla ai livelli minimi dal 96, noi continuiamo a raccontare questa crisi anche con notizie che appunto hanno dato nome alla nostra rubrica, con la canzone di De Angelis e Pretolini. Ma cos'è questa crisi? Tutte quante le nazioni si lamentano così, conferenze, riunioni, ma si resta sempre lì. La crisi! Ma cos'è questa crisi? Ma cos'è questa crisi? Rinunziate all'opinione della parte del leone, chissà che la crisi finirà. Non siamo soli nel crollo della fiducia. I campioni del pessimismo, campioni mondiali di pessimismo, anzi questa non la leggo e vediamo se qualcuno anche la indovina, visto che siamo alla vigilia di Natale. 349-238-6666, campioni di pessimismo a livello mondiale sono altri, sono europei, vi do una mano, sono europei ma non sono gli italiani, hanno il dato più alto alla risposta come vedete la situazione, 8 su 10 di questo paese si aspettano un 2012 economicamente difficile, lo ha realizzato come sondaggio il più grande centro al mondo che è l'americana Gallup International. Ha pubblicato oggi appunto il dato e restano questi cittadini i più pessimisti a livello mondiale, con 20 punti di peggioramento nella classifica rispetto al 2010. Vediamo se qualcuno indovina chi sono. Un ricone avaro e vecchio dice: ahimè, così non va, vedo nero nello specchio, chissà come finirà. La crisi, ma cos'è questa crisi? Ma cos'è questa crisi? Cavi fuori il portafogli, metta in giro i grossi fogli e vedrà che la crisi finirà. E allora, cavi fuori i portafogli, metta in giro grossi soldi, cantava appunto Petrolini o De Angelis, non torniamo sulla polemica, però... Spesa per regali, l'elevazione del CMS Bocconi parlano chiaro, tra novembre e dicembre gli italiani hanno speso in media 589 euro in regali, una riduzione netta, potrà essere sbagliata la percentuale, ma la tendenza è chiara, meno 8% rispetto ai 640 euro del Natale 2010 che già erano in calo rispetto al 2009, che già erano in calo rispetto al 2008. Praticamente la spesa, questi 590 euro, sono suddivisi in 425 euro per i regali ad altre persone, 164 euro per i regali a se stessi, con un calo più consistente per i regali agli altri, e questo vuol dire che insomma non è periodo di grande generosità, cioè la spesa per i regali che fate ai vostri parenti, amici, compagni e compagne è calata di quasi il 10%, quindi attenzione sotto l'albero. Qualche delusione, oppure no, un po' più di sobrietà, meno 9,5%, mentre è calata molto meno la riduzione della spesa per i regali che ci facciamo noi stessi, meno 5%. Il 44% degli italiani ha ridotto le spese per i regali, quindi 4,5 su 10, mentre oltre 5 su 10 ha ridotto quella per i, scusatemi, 4,5 su 10 ha ridotto le spese per i regali agli altri, 5,5 ha ridotto le spese per i regali a se stesso. E nel 12% dei casi i regali sono i beni di lusso, è la famosa parte del 10% che ha il 70% della ricchezza della nazione. Si lamenta Nicodemo della crisi, lui che va nel casino di Sanremo a giocare al baccarà. La crisi, sa, capirà la crisi, ma cos'è questa crisi? Ma cos'è questa crisi? Lasci stare il gavazzare, cerchi un po' di lavorare e vedrà che la crisi passerà. Allora, vedo un ascoltatore che non nemmeno sotto la vigilia di Natale vuole, dice, un programma di economia con gli ascoltatori che reclamano gufi, galli, canzoncini, astrologhe e un conduttore che glieli dà, possono esserci solo in Italia. Sì, anche lei che scrive Italia con la GL, anche lei può esserci solo in Italia. Buon Natale anche a lei comunque. E allora, la bomba Mario Monti è più forte di quella Maradona. Adesso io ogni volta che affronto l'universo napoletano impazzisco. Adesso c'è Moria Longo che si sta innervosendo perché dobbiamo parlare dello spread. Però insomma, avete forse letto che il botto più forte che c'era tra quelli che vendono a Napoli in questo periodo si chiama o spread, e non sto scherzando, quindi arriviamo subito allo spread. Però attenti all'attualità, devo dire più attenti all'attualità di molti programmi, hanno lanciato oggi il botto Mario Monti, che è più forte del botto della Maradona. E praticamente il tema in realtà è serissimo, perché ne ha parlato il rianimatore dell'ospedale Cardellari di Napoli, Mariano Marmo, che si trova poi ogni primo di gennaio con mani amputate, gente in fin di vita, perché questa abitudine è assurda. Ha detto: attenzione, c'è questa bomba Mario Monti che si presenta come un potente esplosivo dall'onda d'urto superiore alla celebre bomba Maradona, e sarebbe lo strumento scelto dai napoletani per esorcizzare la crisi e la notte di Capodanno. Cerchiamo però di non farci peggio con la bomba che non con la manovra di Mario Monti. L'esercente poveretto non sa più che cosa far e contempla quel cassetto che riempiva di danar. Oh, la crisi, signor, ma cos'è questa crisi? Ma cos'è questa crisi? Si contenti guadagnare quel che è giusto e non grattare, e vedrà che la crisi passerà. E allora, la crisi, cos'è questa crisi per la nostra classe politica? Arriviamo a Mori. Allora, noi non so se Mario Monti ha avuto modo di darci un'occhiata, ma al momento sul libro paga di Palazzo Chigi ci sono ben 108 consulenti che Monti ha ereditato dal governo Berlusconi, si è detto con chiarezza, però 108 consulenti, alla faccia d'Italia, la politica. E anche la Lega, che sapete che ce l'ho con la Lega in sti giorni, anche la Lega dov'era quando Palazzo Chigi aveva 108 consulenti? Boh. Comunque, si sommano tutti gli incarichi dei singoli settori che risultano in corso. Praticamente la protezione civile da sola spende 1 milione di euro per 29 rapporti di collaborazione, tutti attivi, io spero che siano tutti utili. E poi il segretariato generale di Palazzo Chigi, che ha in corso 42 consulenze, ma manco il ponte sullo stretto di Messina poteva avere così tanti consulenti, per un totale di 500.000 euro, 532.000 euro. Poi al terzo posto la struttura istituita per celebrare i 150 anni dell'Unità d'Italia, praticamente 8 consulenze da 350.000 euro, tutte in scadenza al 31 dicembre. Forse il miglior modo per celebrare questi 150 anni era evitare le consulenze. Ma cos'è questa crisi? Ma cos'è questa crisi? Chi ce l'ha li metta fuori circolare, miei signori, e chissà che la crisi finirà. Allora, ultima notizia di questa crisi, i deputati lo sapranno solo al rientro delle vacanze. Da gennaio addio voli gratis e senza limiti per l'Italia, e sono problemi anche questi. Prima avevano il diritto ai voli gratis e senza limiti dovendo andare dall'Italia o per l'Italia. L'onorevole per spostarsi dovrà attingere al plafond che la Camera metterà a disposizione di ciascun gruppo. Montecitorio conta di risparmiare 1 milione nel 2012, passando da 9,5 milioni a 8,5 milioni. Si poteva usare anche un pochino di più, si poteva passare da 9,5 milioni a 4. Comunque, quel che conta è il messaggio, vabbè, e quello trasmesso dal bilancio interno della Camera risente del clima. Comunque, la Camera costerà sempre più di 1 miliardo, il prossimo anno pagheremo alla Camera dei Deputati 1,055 miliardi anziché 1,070 miliardi, e festeggiamo tutti, per mettere le campane, guarda. Però lo sforzo di riduzione delle spese è stato ingente per la Camera dei Deputati, il 2,5%. Tutte quante le nazioni si lamentano così, conferenze, riunioni, ma si resta sempre lì. Ah, la crisi! Ma cos'è questa crisi? Ma cos'è questa crisi? Rinunziate all'opinione della parte del leone, chissà che la crisi finirà. Intanto però la Regione Lazio continua a sorprenderci, governatrice Polverini, noi continuiamo a invitarla. Approvata la manovra della Regione Lazio che garantisce i vitalizi agli assessori e aumenta le tasse ai cittadini, mi sembra perfetto, no? La manovra vale 1,7 miliardi di euro, i tagli alla spesa sono 1,4 miliardi, maggiori entrate per 300 milioni di euro. Il vitalizio, questa cosa diciamo fastidiosissima, inaccettabile in questo periodo, sarà abrogato solo dal 2015, chissà dove saremo nel 2015, e i consiglieri in carica quindi hanno assicurata la pensione. Renata Polverini, la governatrice, ha difeso il lavoro della sua squadra e ha spiegato che a gennaio si discuterà dell'abbattimento dei costi della politica regionale. Ma perché non farlo adesso? E poi su quando? Sul 2020? Si lamenta l'impresario che il teatro più non va, ma non sa rendere vario lo spettacolo che dà. Ah, la crisi. Ma cos'è questa crisi? Ma cos'è questa crisi? Metta in scena un buon autore, faccia agire un grande attore e vedrà che la crisi passerà. Allora, la Camera riuscirà, vedremo, a risparmiare il 2,5% l'anno prossimo, veramente effettivamente 1 miliardo di euro per il funzionamento della Camera dei Deputati mi sembra eccessivo. Moria Longo, buonasera innanzitutto, collega del Sole 24 Ore. Buonasera a voi. Quando c'è Moria non ci sono ultimamente mai buone notizie, ma non è colpa tua, non avrai nessun gufo. Che sta succedendo sugli spread? Perché insomma, 2 giorni fa la Banca Centrale Europea ha fatto un'operazione che alcuni hanno voluto vedere quasi contro la Germania, ossia diventa quasi un prestatore in ultima istanza, garantisce comunque con 484 miliardi di euro, li regala sostanzialmente alle banche perché glieli dà con un prestito all'1% per 3 anni, quindi meglio di così, non so, mancava solo il panettone. E lo spread oggi torna a salire sopra i 500 punti. Beh, oggi è influenzato sicuramente dal fatto che tanti operatori sono già in vacanza, comunque i volumi di scambi sono molto bassi, per cui la giornata di oggi fa poco testo. Detto questo, era già alto, è rimasto alto anche nei giorni scorsi, per un motivo secondo me banale. Questa operazione che ha fatto la Banca Centrale Europea dà un grossissimo sollievo alle banche, e questo è fuori di dubbio. È un po' più dubbio se darà un sollievo sia ai titoli di Stato sia all'economia reale, perché questi soldi, la BCE cosa ha fatto? Ha prestato con un tasso agevolato dell'1% 489 miliardi di euro a tutte le banche europee, di cui 116 miliardi sono finite alle banche italiane, l'hanno chiesti loro. A questo punto però tutti si domandano come le banche utilizzeranno questi soldi, quindi il punto interrogativo è questo, e è questo secondo me che sta pesando un po' sul mercato, perché quello che si è capito, quello che si sa per certo, è che le banche useranno questi soldi innanzitutto per rimborsare i loro debiti dell'anno prossimo. Vi do solo un dato: l'anno prossimo le prime 5 banche italiane avranno 88 miliardi di obbligazioni in scadenza. Quindi dei 116 miliardi già 88 sono in un certo senso impegnati. Potrebbero anche usare, questo ce lo dicevano alcuni banchieri nei giorni scorsi, potrebbero usarli per ricomprare le loro obbligazioni sul mercato, anche quelle che scadono negli anni successivi. Dato che le obbligazioni bancarie adesso sono molto depresse sul mercato, hanno prezzi molto bassi, anche 80% del valore nominale, la banca con questi soldi se le può ricomprare, quindi riduce il proprio debito in un certo senso e fa anche un utile. E qui abbiamo già la risposta alla prima domanda che tutti ci siamo posti: quando ottieni 484 miliardi a un costo dell'1%, magari potessero darci a noi così, che cosa ne fai di questi soldi? L'Italia tra l'altro si è presa una delle fette più grosse, quasi 25% di tutta sta roba l'hanno presa le banche italiane, 114 miliardi. Hai tre possibilità: o li usi per ricomprarti le tue obbligazioni, cioè il debito che hai emesso te lo ricompri, perché in questo momento lo compri anche a un buon prezzo, diciamo. O compri i titoli di Stato perché rendono tanto, e voglio dire, oggi siamo arrivati al 7% nel rendimento sul secondario del BTP a 10 anni, o fai la banca, cioè presti soldi ai cittadini e alle imprese. Mi sembra che la terza sia quella che tu vedi più difficile. Ma le banche in questi giorni hanno tutte assicurato che presteranno soldi all'economia reale, quindi lo faranno, quindi ovviamente noi non possiamo dire di no, nel senso possiamo un po' sospettarlo, dubitarlo, però ovviamente saranno poi i fatti dell'anno prossimo a dire chi ha ragione. Io dico soltanto una cosa, che le banche italiane hanno un grosso problema, per esempio per quanto riguarda i crediti erogati alla clientela, hanno un grosso problema di crediti deteriorati, cioè crediti in sofferenza cosiddetti. Vi do soltanto anche qui un dato: nel 2008 i crediti deteriorati erano il 3%, per le prime 10 banche italiane erano il 3% del totale crediti erogati alla clientela. Nell'ultimo trimestre del 2011, quindi il terzo trimestre, gli ultimi dati disponibili, I crediti deteriorati sono il 12% di tutti i crediti erogati alla clientela, quindi diciamo sono in percentuale sono quadruplicati questi crediti deteriorati, quindi per le banche questo è un peso, questo è un costo, e quindi è ovvio che anche se adesso hanno una raccolta all'1%, quindi hanno un tasso agevolato con cui loro si possono finanziare, però io non credo che questo cambierà molto, nel senso che comunque dovranno stare attenti a prestare soldi alla propria clientela, anche perché l'economia va male, per cui va male anche per le imprese, le famiglie a cui prestano i soldi, per cui è necessario che stiano più attenti, quindi ci sarà forse un allentamento, una maggiore voglia a prestare, ma non credo che sia una cosa, un cambiamento epocale, ecco, cioè comunque la situazione resterà difficile. Per quanto riguarda l'acquisto di BTP, questa è un po' la speranza che hanno i banchieri centrali. Mario Draghi e Ignazio Visco, insomma tutti, sì, i governatori sperano che le banche con questi soldi, oltre a ricomprarsi un po' del loro debito e quindi a garantirsi la loro sostenibilità, comprano anche un po' di debito sovrano, di debito dei paesi, BOT, bonus e quant'altro. Sì, questo sarebbe per le banche un'operazione vantaggiosa dal punto di vista dei tassi di interesse, perché si finanziano, cioè prendono soldi a un tasso dell'1% e li investono in titoli che rendono il 5, 6, 7%, per cui ci guadagnano automaticamente. E questo è quello che tanti sono convinti che le banche lo faranno. Anche qui io, sentendo vari operatori, varie persone sul mercato, rimango un po' scettico per un motivo banale. Per esempio, parlando delle banche italiane, le banche italiane sono già pienissime di titoli di Stato italiani. Banca Intesa San Paolo ne ha 58 miliardi nel bilancio, Unicredit 48, il Monte Paschi 32. Allora, è da mesi che crollano le banche in borsa perché sono piene di titoli di Stato. Io non credo che adesso abbiano tutta questa volta voglia di riempirsi ulteriormente i titoli di Stato. Sicuramente un po' li acquisteranno, ma non credo che anche qua ci sarà una manovra, un acquisto massiccio di BTP o di BOT da parte delle banche italiane. Forse si concentreranno sui BOT che sono a breve scadenza, ma un po' meno credo sui BTP, fino a prova contraria. Allora, vedremo poi come andranno di questo cose. Riparleremo anche nella seconda ora. Un ascoltatore dice: ma insomma anche lei cosa pensa, che si possa prestare soldi alle imprese in 2 giorni? Scrive un bancario, immagino, dice: guardi che qua i soldi non ce li sta chiedendo più nessuno. Allora, anche questo è vero, anche questo è vero, è ovvio, quando tu hai un rallentamento economico forte probabilmente le imprese in questo momento non vanno a indebitarsi chiedendo, a meno che non abbiano progetti chiari legati anche all'export, lo dico col massimo rispetto, legati anche all'internazionalizzazione, ma se no tieni botta, non vai a investire, anche se potrebbe essere sbagliato, perché proprio in questi momenti che devi investire, ma quando tu hai una difficoltà sul futuro è chiaro che stringi. Però dopo il metro e la pubblicità vorrei chiudere con te, Moria, perché insomma questi 480 miliardi prestati qualche effetto per noi lo devono avere. Allora, io ho capito che mantengono in piedi il sistema bancario, perché sennò qua avevamo da Commerzbank in giù rischiavamo, con buona pace dei rigorosi tedeschi, di far saltare il sistema finanziario europeo, cioè non si prestavano più soldi, non riuscivano a rientrare, a un certo momento la banca poi non ci sta più dentro, e questo lo vogliamo tutti evitare. Prima minaccia probabilmente allontanata, però o che comprano un po' di titoli di Stato o che investono in prestino i soldi a imprese e cittadini, questo anche uno se lo può attendere. Vorrei capire però perché ieri sera si sono buttate tutte le banche europee a lasciare i soldi dentro la cassaforte della BCE con i prestiti overnight. Cioè ieri, vi ricordo il dato, nuovo record dal giugno 2010, le banche europee ieri per la notte hanno parcheggiato 347 miliardi di euro che poi hanno ripreso questa mattina. L'overnight funziona così, li lasci lì, ci guadagni, adesso non so, lo zero e qualcosa o anche nulla, però meglio lasciarli lì che darli a qualcun altro. Questa è la cosa paradossale, ne parliamo dopo il metodo, la pubblicità. 349-238-6666 per i vostri sms. minuti, di nuovo in diretta con Sebastiano Barisoni. Vedo molti messaggi su come chiedere prestiti al 349-238-6666 e molti bancari che ci dicono: guardi che ormai il messaggio che arriva a tutte le filiali dalla casa madre è di non concedere mutui, prestiti o finanziamenti vari. Altro che fare la banca, ci chiedono di collocare solo prodotti e prodottini vari e infarcendone i clienti. Io spero che non sia sempre così. La vicenda della BPM su quell'obbligazione, ecco, convertendo, la dice in un altro modo. Comunque, Mario Longo, perché ieri notte abbiamo toccato un nuovo record nei depositi che le banche hanno lasciato dentro la cassaforte della BCE? Allora, questo era abbastanza prevedibile, perché il finanziamento che la Banca Centrale Europea ha dato alle banche europee aveva una durata di 3 anni, quindi sono soldi che le banche disporranno per 3 anni per fare tutto quello di cui abbiamo parlato prima. È ovvio che il primo giorno in cui gli arrivano questi soldi, uno la prima cosa che fa li mette un attimo sul conto corrente prima di utilizzarli, quindi il dato, l'aumento di questo deposito overnight, che è di fatto tra virgolette il conto corrente che le banche europee hanno presso la BCE, di per sé non vuol dire molto, c'è un parcheggio momentaneo per appunto, anche perché adesso iniziano le festività natalizie, prima di impiegare questi soldi in altro modo. Quindi, e quello che sarebbe negativo è se questo parcheggio restasse utilizzato in questa maniera per molto tempo, quindi allora vuol dire che le banche veramente non vogliono usare questi soldi ma se li tengono soltanto sul conto corrente. Se questa cosa è momentanea, assolutamente può essere appunto passeggera, in attesa che questo denaro venga utilizzato. Sì, ci torniamo sul tema. Io ti ringrazio, grazie Mario Longo del Sole 24 Ore, però adesso con calma monitoreremo, perché io dico va bene tutto, ricomprati un po' di debito tuo come banca, metti però anche dei soldi nel debito nostro e comprati un po' di BTP e BOT, visto che hai ottenuto i soldi all'1%, ci guadagni, santo Dio, ci guadagni il 6% in questo momento, hai un guadagno del 5% netto senza neanche dover fare leva, derivati e maquillage, e poi dai qualcosa in maniera sana e prudente, però dai qualcosa all'economia del paese, quindi trovando anche varie formule di magari prestare più ai distretti o a chi è in rete e in filiera, perché ti garantisci di più la filiera rispetto al singolo imprenditore, ma occorre tornare a prestare soldi alle imprese, soprattutto le piccole. Borsa. Ultima seduta prima di Natale, più 0,30% Milano, più 1% Parigi, più 0,50% Francoforte, più 1% Londra, allo 0,60% rialzo di Wall Street, euro quota 1,3038 sul dollaro, bene A2A più 2,36, generali più 2,1, Snam più 1,60 come Exore, Autogrill ma anche Terna e Ansaldo, 1,5% lo guadagna Mediaset, l'1,30 Salvatore Ferragamo assieme a Tenaris, l'1,15 Lottomatica. Chi perde? E banche, alcune non tutte, Unicredit meno 3,40. Unicredit, l'ultimo prezzo è 69 centesimi di euro, qua siamo tornati sui livelli diciamo post Lehman. UbiBanca meno 2,70, pure qui a 3,27 euro, Intesa San Paolo meno 2,17, 1,31 euro, un po' meglio ma sempre molto debole il titolo. Monte dei Paschi meno 0,80 a 25 centesimi di euro, 25,80. E male anche in pregilo, meno 3,46%, e poi cede Pirelli mezzo punto come Finmeccanica, Prismian, ossia l'ex Pirelli Cavi e il Banco Popolare, ma anche Buzzi. Unicem, Paolo Paronetto, Radio Corri sulle 24 ore, buonasera. Buonasera a tutti. Unicredit e in pregiro diciamo, si era molto mossa sul rastrellamento che sta compiendo Salini, no? Che era già salito al 10%, comunque. Sì, esattamente, in pregiro è proprio quello, nei giorni scorsi il titolo era salito molto proprio in vista di possibili cambiamenti nell'azionariato e di fronte a quelle che sono di fatto due proposte contrapposte, cioè quella targata Gavio che vuole prendere il controllo dell'intera holding Igli, che controlla, che è l'azionista di riferimento di in pregiro, e poi l'altra del gruppo Salini. Prima delle festività quindi gli investitori sono passati a realizzare parte di questi guadagni, inoltre oggi è in corso il CDA di Fondiaria Sai, ne parleremo anche in occasione del commento sul titolo di Fondiaria Sai, e sul tavolo c'è tra le altre cose proprio l'offerta di Gavio su Igli, e sembra che secondo le indiscrezioni, se come appare i ligresti decideranno di accettarla, potrebbe essere strada spianata proprio per la famiglia Gavio, quindi di fatto si spegnerebbe l'appeal speculativo dato da queste due offerte contrapposte sul titolo in pregilo. Per quanto riguarda Unicredit, ha perso terreno con tutte le banche che hanno anche qui penalizzato dai realizzi dopo i rialzi di ieri, inoltre Unicredit, lo sappiamo, a breve, a inizio gennaio, lancerà l'aumento di capitale. Secondo le ultime indiscrezioni lo sconto potrebbe essere decisamente elevato, si parla fino a un 45% di sconto, anche se sono ovviamente voci non confermate. Inoltre, secondo quanto è comunicato, secondo quanto riportato oggi dal Sole 24 Ore, il consorzio di garanzia è stato aperto, allargato ad altre 12 banche, quindi segno che e saranno necessarie spalle larghe, insomma, per portare in porto un'operazione di queste dimensioni in questa fase di mercato. Adesso veniamo agli altri titoli dopo il traffico. Devo dare la risposta però sulla classifica del paese più pessimista, dove i cittadini sono più pessimisti. Non ci avete indovinato in tanti, era difficile, devo dire, perché i campioni del mondo, perché il sondaggio è della Gallup International, la principale rete di sondaggi al mondo, i campioni del mondo di pessimismo restano anche per il 2011 i francesi, non i tedeschi, non i greci. Non so se i greci forse non hanno neanche risposto. Però 8 francesi su 10 si aspettano un 2012 economicamente difficile, e la Francia mantiene il titolo di campione del mondo del pessimismo. Il saldo è tra ottimisti e pessimisti di meno 79 a favore dei pessimisti. Pensate che a livello mondiale è meno 3, ci sono 3 pessimisti in più rispetto al numero degli ottimisti. Ed è peggiorato molto dal 2010. Traffico. 17:48 minuti, vedo una marea di messaggi di persone che confermano che l'esperienza con le banche è di addirittura c'è chi dice asfissia, cioè stanno chiedendo di rientrare, revocano i fidi, anche quelli a rischio secondario. Non so, noi continuiamo a dirlo. Adesso speriamo che, fatti due conti, anche le banche, alcuni scrivono giustamente che le banche più piccole sul territorio sono più vicine alle imprese, va bene, però qui il problema è che tutto il sistema deve tornare a erogare credito con sana e prudente gestione, ma non si può ricevere 484 miliardi a livello europeo, 114 in Italia, e usarli solo per sistemare le proprie ferite e poi passata la festa, gabbato lo santo. Ridate anche sul territorio, imparate di nuovo ogni tanto a come si a concedere credito. Non è che tutti i progetti siano necessariamente fallimentari, o bisogna impegnare la casa, la fabbrica, la moglie, l'amante, i parenti più stretti, anche quelli più lontani, per ottenere un credito in banca. Comunque, Paolo Paronetto, Exor va bene perché oggi ha formalizzato, diciamo, la cessione di Alpitour, 200 milioni, quanto? 225 milioni. Sì, esattamente, era un'operazione che si attendeva, di cui si parlava da molto tempo. Oggi è stata chiusa, è stata annunciata questa operazione. Exor venderà Alpitour a due fondi di private equity che sono Wise e Hirsch, insieme ad altri investitori, e poi acquisirà il 10% del veicolo societario che sarà costituito appositamente per fare questa operazione. Naturalmente una notizia attesa, ma comunque sicuramente positiva per la società, che ha guadagnato oggi l'1,6%. Ancora Fondiaria Saicom, anzi A2A, perché oggi è stata una bella giornata, più 2,36%, segue Generali più 2,14%, Snam più 1,70%, Exor appunto più 1,60%, come Autogrill, Eterna, Ansaldo STS 1,5% come Mediaset, Ferragamo più 1,30%. Dicevo A2A. Sì, esattamente, A2A si è mossa proprio sulla scorta delle vicende del riassetto Edison. Infatti anche la stessa Edison ha guadagnato molto terreno in borsa, ha guadagnato oggi il 4,2%. Sembra che stiano arrivando le prime aperture da parte dei francesi di EDF sulla proposta dei soci italiani di Edison per il riassetto del gruppo, una proposta che prevede che in mani italiane vada la totalità di Edipower in cambio del 30% di Edison che andrebbe alla società francese. C'è stato un incontro tra il numero uno del DF Proglio e il ministro dello sviluppo economico Corrado Passera, e proprio in questa occasione sembra che i francesi abbiano mostrato le prime timide aperture, quindi si potrebbe avvicinare la conclusione di questa vicenda che si trascina ormai da mesi. Potrebbe addirittura essere rispettata la scadenza di fine dicembre, naturalmente sarebbe una notizia positiva per tutte le società coinvolte, che potrebbero risolvere la questione e tornare a dedicarsi al business, e quindi oggi gli investitori hanno premiato tutti i titoli coinvolti nell'operazione. Ancora tra i titoli cito Fondiaria Saicom, l'abbiamo detto, ma migliori e peggiori in assoluto. Abbiamo Arena più 20%, novità su Arena? Sì, no? No. Meridie Spa più 13,75%, Milano Assicurazioni più 11%. Anche qui dimmi se ci sono novità. Beh, qui è tutta la questione Fondiaria Saicom. Fondiaria Saicom, chiaro, no, scusami, di amministrazione che durerà Milano ancora Assicurazione, ora. Invece Juventus Football Club meno 9%, il Cogeme 7% meno 6%, il Sole 24 Ore meno 5,96%, Cape List Investment meno 5,50%. Novità sul Sole 24 Ore? Ma sul Sole 24 Ore novità sappiamo noi interni quello che sta succedendo, la società naturalmente è impegnata nel rilancio del gruppo, contenimento dei costi, nuovi investimenti, vedremo cosa succederà. Comunque il titolo perde il 5,96 e dico in finale d'anno quanto ripeto lungo tutto l'anno, noi citiamo le variazioni più importanti, quando tra queste c'è anche il titolo del gruppo dove lavoriamo lo citiamo e basta, non c'è nessuna ritrosia né reticenza, fidatevi, tanto insomma azioni non ne abbiamo, per cui a maggior ragione. Grazie a Paolo Pronetto, buon Natale a tutti i colleghi di Radio Colli, Sole 24 Ore, giro di tu a nome mio Paolo, e noi adesso restiamo sul tema, o meglio ci spostiamo dalle previsioni della borsa alle previsioni degli astri. 349-238-6666 per i vostri sms. Salagadula, mencicabula, bibidi bobidi bu, mettele insieme che accade laggiù, bibidi bobidi bu. Non leggo mai i messaggi di auguri, anche se ringrazio tutti. Questo lo voglio leggere, però, perché è scritto da due persone relativamente anziane, Franca e Pino, che sono in pensione. E gli auguri di Buon Natale li faccio volentieri a tutti i giovani che non hanno lavoro, ma anche e soprattutto ai pensionati che sono diventati l'oggetto del desiderio di questa manovra, no? Allora, grazie Franca e Pino, e grazie a tutti. I pensionati in bocca al lupo, soprattutto chi non avrà rivalutato la pensione. Speriamo che non siano più le pensioni l'unico elemento per rilanciare l'economia, mettiamola così. Grazie Mirti, buonasera. Buonasera. Come sta? Bene. Allora, lei ci aveva detto che nel finale d'anno, ottobre, novembre, la borsa ripartiva, è successo di tutto, a momenti non restava in piedi neanche il paese. Però, cosa c'è stato un po'? Anche gli astri... Anche gli astri no, si sbagliano? No, gli astri non funzionano, vuol dire che chi li decodifica non ha interpretato bene. Quindi è colpa sua? Certo. Ah, già questo no, non c'è mai nel mondo della finanza è molto raro sentirsi... No, ma è la mettere... verità. Allora, cos'è anche... che non ha visto? No, semplicemente a partire dall'11 novembre... Quando si è dimesso Berlusconi, il giorno prima. Esattamente, Marte ha iniziato un lunghissimo soggiorno in Vergine che lasciava sperare una pronta impostazione e soluzione dei problemi. Nella realtà questo non è avvenuto e quindi ci cospargiamo il carro di cenere. No, questa me la devi spiegare. Cioè esattamente il giorno delle dimissioni di Berlusconi, sì, Marte è andato in Vergine? In Vergine e praticamente di solito sta 2 mesi in ogni segno, questa volta ci sta 9 mesi e sarà tutto un tempo dedicato probabilmente a dei restauri tra virgolette che speriamo funzionino. Il nuovo primo ministro mi dica, è Pesci? Ascendente Acquario. A Monti e Pesci ascendente Acquario, sì. Esattamente. È nato il 19 marzo. No, quello è cosa nota. È Pesci, sì. E questo che vuol dire, mi scusi l'ignoranza? Che vuol dire che ha davanti a sé un periodo veramente di grande pressing, fatica, eccetera. Speriamo che dia dei risultati che noi auspichiamo. Purtroppo il nuovo anno non nasce sotto stelle troppo promettenti. Cioè, fino a giugno continueremo con questi tentativi e queste ricerche di soluzioni. Purtroppo poi a luglio c'è uno spostamento del medesimo Marte che è particolarmente insidioso perché va a inserirsi in altre situazioni non facili, quindi potrebbe portare a qualche peggioramento che diventerà sicuro intorno a settembre-ottobre, perché abbiamo degli spostamenti epocali di pianeti, in particolare Saturno che entra in Scorpione, che è il segno degli investimenti e il segno anche delle pensioni, dei redditi, e questo non è un elemento favorevole, per cui prevedo una situazione effettivamente più difficile soprattutto intorno a fine estate, autunno, a partire da luglio ci sono dei rischi. In particolare ci sono 2 pianeti epocali, uno è Nettuno che ritorna dopo 160 anni nella posizione in cui era nel 1848 e Urano che ahimè ritorna nella posizione in cui era nel 1900. Sì, però allora, adesso io dopo lo metterò in confronto con uno dei più grandi bankers o più private bankers italiani e mi dirà, però lei mi deve ancora spiegare, io non ho capito perché avete sbagliato la previsione. Lei ha sbagliato la previsione, me lo spiega però dopo il GR perché vorrei capire che cosa non ha funzionato. E invece chiedo a un ascoltatore, perché non capisco il messaggio, complimenti per la battuta, noi di malattie non ne abbiamo, sino oggi la riteniamo una persona intelligente. Non ho capito che cosa ho detto, se non dare tutto il mio supporto ai pensionati, su cui buona parte della manovra si è concentrata. Adesso il GR, poi mi spieghi esattamente questa cosa che Marte va in Vergine, ci sta 9 mesi, è quasi un parto, Mirti, 9 mesi, e poi quei due soggetti forse non è il caso. Il GR, dai, che è meglio. Minuti di nuovo in diretta con Sebastiano Barisoni per questa ultima puntata prima della pausa natalizia, ma il 26 il programma è di nuovo in onda, nella versione ridotta un'ora fino al 6 di gennaio, faremo il punto, la borsa è chiusa. Allora, vedo commenti contrastanti sull'astrologo, allora lo ripeto come in altri casi, visto che tutto l'anno raccontiamo previsioni che poi spesso si rivelano alcune volte sbagliate, altre così e così, e ci sono stati giudizi delle grandi banche d'affari che evito di ricordare per carità di patria e per carità di queste banche, secondo me si può anche sentire in finale d'anno che cosa prevedono gli astri. Salagadula, mencicabula, bibidi bobidi bu, mettele insieme che accade laggiù, bibidi bobidi bu. Allora, grazie a Mirti, che ha scritto un libro, tra l'altro, per il Sole 24 Ore, per la casa editrice del Sole 24 Ore, Investire con gli astri. Se ho ben capito, avremo un 2012 dove la Vergine va in Marte per 9 mesi. No, ho capito nulla. È Martire che va nella Vergine, giusto. E non poteva che essere altrimenti. Ma senta, e questo cosa vuol dire sul fronte finanziario? Il fronte finanziario vuol dire che ci si impegna per toglierci dai pasticci, ma la partita è molto dura, cioè in pratica la mia previsione era dovuta al fatto che c'era anche un bel supporto di Giove e di Plutone, non è bastato, e questo è un brutto segnale, perché vuol dire che la situazione è veramente molto molto difficile. Infatti, purtroppo, a partire dall'estate temo che i nostri sforzi frenati. Anche gli astri, no, già c'è la Merkel. La Merkel che segno ha? Cancro? Sì. Evito ogni battuta, ma senta una cosa, ma quindi lei dice che da giugno la situazione peggiorerà ulteriormente? Da luglio. Beh, però visto che non ci ha beccato la volta scorsa, magari... Appunto, ma poi crepi l'astrologo, speriamo che io sbagli assolutamente, però cerco di essere onesta quando dico i miei commenti. E sui paesi, perché l'euro, che lei una volta ci ha spiegato anche che l'euro... L'euro è un capricorno che è nato il 1 gennaio 2002, e secondo i miei illustri colleghi nasceva già un po' bacato, però secondo me invece si difende. Anche secondo i fondi pensione giapponesi ultimamente. Appunto, no, ma ci sono delle buone prospettive. Adesso ci sarà un recupero ancora del dollaro all'inizio dell'anno, però non è in crisi, secondo me non è a rischio sicuramente l'euro. Invece tra i vari paesi abbiamo di nuovo la Grecia, che sarà in fase critica, specialmente in quel mese di luglio che dicevamo. La Spagna adesso sembra recuperare, però non è così ben messa. Il Portogallo anche lui è abbastanza in fase critica. Invece c'è il Brasile, che è molto emergente, molto positivo. E l'Italia, mi scusi? L'Italia 10 giugno del 46, 18 e 10, che sarebbero i risultati del referendum nel quale ha vinto la Repubblica, va verso una fase abbastanza costruttiva, nel senso che Giove, a partire dal mese di giugno, sarà nel segno dei Gemelli, dove per l'appunto è nata la Repubblica. Questo non deve comunque alimentare euforie, perché in realtà poi la Luna è nel segno dello Scorpione, dove andrà appunto quel bieco Marte con Saturno alla fine dell'estate. Quindi, se posso sintetizzare l'analisi tecnica, certo. Lei dice complessivamente da luglio in poi ci sarà un peggioramento della situazione, che riguarderà alcuni paesi, in particolar modo Spagna, Portogallo e Grecia. E anche un po' l'Italia? E anche un po' l'Italia, però l'Italia più avanti, direi soprattutto verso diciamo agosto, settembre. Cristoforo Colombo, da questo punto di vista, quindi nemmeno per l'Italia sarà un 2012 esaltante, non solo per... No, ma noi ci accontenteremmo che fosse un 2012 tranquillo e normale. Speriamo nell'anno del dragone, che per i cinesi addirittura tutte le donne cercano di concepire per avere figli nel 2012, perché è l'anno del drago, appunto. Sì, ecco, io spero che i cinesi concepiscano meno figli, però mi scusi perché sono già 1.300.000.000 se si mette anche l'anno del dragone. Comunque, sull'euro-dollaro invece lei... Sull'euro-dollaro dico che l'inizio dell'anno è a favore del dollaro, forse anche l'estate sarà più a favore del dollaro, però ci sono poi delle fasi in cui invece migliora l'euro, quindi non temo per la caduta dell'euro. Salagadula, mencicabula, bibidi bobidi bu, mettele insieme che accade laggiù, bibidi bobidi bu. Giovanni Tamburi, presidente, amministratore delegato della Tamburi Investment Partners, titolo quotato in borsa, buonasera. Buonasera. Non le era mai successo di arrivare con Cenerentola? Che segno ha lei, Tamburi? Toro. Toro. Mirti, glielo facciamo una previsione. Il toro è il segno delle finanze, è anche il segno di Cornero. Così è facile, però. Gli ho appena detto cosa fa. Ma se il toro è il segno. Addirittura Wall Street ha il toro davanti, nella statua, scusi. Ha ragione lei, ci mancherebbe, come spesso avviene in questo programma. E quindi il toro è che è il segno delle finanze? E adesso Giove sta nel segno del toro. Ecco perché le banche si sono così bene recuperate i quattrini a Bruxelles. Proprio perché il Giove nel toro. Sì, secondo me perché anche per altri motivi. Ma non lo spenderanno per i poveri cittadini. Non lo spenderanno, lei è convinta di questo? Convinta. Allora, Tamburi, vuole che le riassuma o ha sentito le previsioni delle stelle, degli astri sul 2000? Sono l'ultima parte, perché mi hanno collegato da 2-3 minuti, per cui sono l'ultima parte. Beh, non sarà un gran anno il 2012 secondo gli astri. C'è Marte che entra nella Vergine e già l'idea stessa è terrificante, e questo vuol dire, adesso cerco di riassumere, Mirti, vuol dire che sarà un anno molto pesante da luglio in poi per Portogallo, Grecia, Spagna e anche per l'Italia. Perché, Mirti? Perché noi... Sono delle configurazioni geometricamente molto insidiose, non sto a darvi delle ulteriori complicazioni che poi non allora servono. Partiamo dalla... lei al calendario Maya ci crede, alla profezia Maya ci crede? Non credo alla profezia Maya come viene descritta. Cioè nel 3000 avanti Cristo loro erano bravissimi, hanno fatto dei calcoli che dovevano terminare il 22 dicembre 2000. E 12, ma lei capisce bene che nel 3000 avanti Cristo sembrava una data remota questa. Io credo che sia semplicemente un indizio di un cambiamento globale del modello di vita che pian piano andremo ad assumere. Non voglio sapere quale. Allora, Giovanni Tamburi, partiamo dalle banche, visto che oggi lo spread ha toccato i 507 punti. Le banche europee hanno ottenuto 484 miliardi dalla Banca Centrale Europea, prestito a 3 anni all'1%, cioè praticamente regalati. Secondo lei li investiranno, oltre che per ricomprarsi il debito loro, quindi le obbligazioni bancarie in giro sul mercato, anche in debito sovrano, quindi BTP, bonus e quant'altro, e anche presteranno un po' più soldi alle imprese oltre che ai cittadini? Ma io credo che innanzitutto questo è ossigeno importantissimo per le banche, per consentire il rinnovo dei fidi. Cioè alcune banche stavano facendo fatica a seguire addirittura il rinnovo dei fidi che più o meno automaticamente le aziende, le persone italiane chiedevano, per cui questo è il primo ossigeno, per cui una parte andrà alle persone, una parte andrà ai mutui e una parte andrà alle aziende come rinnovo. Vedo poca finanza fresca alle nuove imprese e per cui non credo che ci sarà grandissimo ossigeno dato alle imprese. Certamente cercheranno di spalmarlo piano piano nel tempo l'investimento di questi titoli e faranno un po' di sano carry trade comprando titoli di Stato, obbligazioni di loro stesse, eccetera eccetera, per cui di qui a 2-3 mesi loro investiranno in titoli, diciamo, che rendano ben di più rispetto al costo della raccolta con la BCE, e cercheranno di fare un po' di conto economico. Ecco, quanto ha investito lei nelle varie società in cui avete quote di partecipazione? Il private equity questo fa, compra pezzi o la maggioranza di gruppi industriali, in alcuni casi per ristrutturarli e poi dopo un po' di anni uscirne, in altri casi come partecipazione. Voi complessivamente quanto siete investiti? Noi direttamente ad oggi siamo circa 200 milioni, indirettamente, cioè con i veicoli che facciamo insieme ai nostri soci per coinvestire sulle varie aziende, circa 650 milioni di euro. Allora, visto che lei ha tra dirette e indirette appunto 650 milioni, più i 200 o all'interno dei 200? All'interno dei 200. Condivide la previsione di Grazia Mirti che da metà giugno saranno dolori? Perché io vedo un rallentamento che è già in atto, che di solito si scarica nella prima parte dell'anno, però. Ma guardi, io onestamente continuo a considerare che le aziende buone potranno continuare a dare buone soddisfazioni. Cominciamo a dire che il mercato quest'anno in Italia ha perso mediamente il 30%, ma ci sono società che hanno il segno positivo rispetto al primo gennaio ad oggi, alcune anche segni positivi importanti, altre attorno allo zero, ma già c'è da essere molto contenti. Tra l'altro le aziende buone hanno dato tutte un buon dividendo nel 2011, per cui questo già dà qualche soddisfazione. Riguardo al 2012, secondo me sarà un anno innanzitutto di grande volatilità, perché l'incertezza permarrà, non ci sono certezze di nessun tipo e per cui ci saranno degli alti e bassi. Che poi si posizionino nella prima parte o nella seconda parte, onestamente si fa fatica a dirlo, nel senso che solo settimana questa qui abbiamo avuto un giorno a più 4, il giorno dopo a meno 3, per cui effettivamente è molto molto difficile. Quello che comunque continuerà certamente è la selezione, nel senso che aziende buone, aziende internazionali, diversificate, tecnologiche, continueranno a essere premiate al mercato, anzi, ho l'impressione che nel 2012 lo saranno ancora di più, perché comunque un po' di decimazione di aziende si sta vedendo in tutto il mondo e per cui chi ha un'azienda presente nei mercati internazionali, presente nei mercati emergenti o anche in America, i dati che stanno arrivando dall'America, sì, sono buoni. Le nostre aziende nelle ultime settimane sono ottimi, addirittura alcune stime dei nostri colleghi dell'ufficio studi danno un più 3, forse addirittura più 3,5% annualizzato dell'ultimo trimestre, e per cui l'America, che comunque è una parte importante del fatturato delle aziende internazionali, sarà positivo. Se tutto questo è vero, essendo oggi a livelli vicini ai minimi in generale del mercato, secondo me potrà essere un anno che, seppur nella volatilità, su alcuni titoli potrà dare buone soddisfazioni. Allora, adesso abbiamo le informazioni sul traffico, poi vorrei sapere da lei, ma resti con noi anche Grazia Mirti, come investe e come investirebbe nel 2012. Molti messaggi, vabbè, c'è un ascoltatore che dice: ma non vi vergognate a interpretare una astrologa, povera Italia, ne parlerò al direttore. Al di là di questa frase finale, lei non sa chi sono io. No, non mi vergogno più di quanto non mi sia vergognato a far ascoltare alcune frasi nel passato in cui la crisi non c'era, la crisi era già finita, l'Italia non era in crisi, le banche italiane erano messe meglio. Oh, sì, lo stesso tipo di imbarazzo. Traffico. Allora, Giovanni Tamburi, veniamo a domande ancora più concrete. Lei comprerebbe azioni l'anno prossimo? Certo. Come mai? Come dicevo prima, sulle i prezzi sono ai minimi, o meglio, non ce ne siamo accorti, ma rispetto ai minimi di un mese fa siamo già più 12, 11, 13%. E tra l'altro, a chiunque si chieda oggi dove sono i mercati, leggendo i giornali, chiunque direbbe siamo ai minimi dei minimi, e comunque abbiamo fatto il 10% in pochi giorni. Le azioni, secondo me, sono a buon mercato e devono essere continuate a comprare. Se anche dovesse andar male il 2012 in tutto in parte, non posso che dare buone soddisfazioni. Gli yield, cioè il rendimento percentuale dei dividendi rispetto alle quotazioni in borsa, sta raggiungendo livelli molto interessanti, per cui, se non altro in termini di rendimento, le azioni sono tornate ad essere un asset class molto interessante. Poi peraltro il mio mestiere è investire in azioni, per cui continuerò a farlo e spero di farlo decorosamente. Ecco, comprerà anche obbligazioni magari italiane? Voglio dire, oggi, al di là dello spread che è volato a 515 punti a un certo momento, sul mercato secondario il BTP a 10 anni rendeva il 7,09%, cioè un'enormità, una cosa che non si può reggere. Però è anche vero che uno, se compra adesso un BTP, lo porta a scadenza, ha un guadagno che difficilmente riesce a ottenere in maniera così sicura in altri modi. Quindi? Ma quindi la risposta è sì, nel senso che secondo me non ce ne siamo tanto accorti, ma quello che diceva lei prima è fondamentale, cioè la BCE, che ha finanziato quasi 500 miliardi di euro l'altro ieri tutte le banche, vuol dire che ha dato un segnale per cui l'euro non dovrebbe saltare, l'Italia, la Grecia, la Spagna, il Portogallo non dovrebbero saltare, dovrebbero semplicemente per un fatto così scaramantico, ma effettivamente con la BCE che ha fatto questa operazione e che si è disposta a farne un'altra illimitata come questa a marzo, io credo che tutti i catastrofisti che per mesi ci hanno raccontato che era questione di settimane il vedere il default dell'Europa devono stare un po' più tranquilli. Per cui secondo me che le banche anche oggi comprino poco di titoli di Stato, ma un po' le compreranno. Certamente le banche sono il primo finanziatore degli Stati, il primo acquirente di titoli obbligazionari degli Stati, pian pianino cominceranno a ricomprarli. Secondo me anche i risparmiatori pian piano si renderanno conto che questo tipo di manovra a livello europeo, non politica ma economica, perché ci si è resi conto che la politica non era in grado, ma la BCE è stata in grado, potrà portare nuova fiducia, e per cui secondo me oggi comprare un BTP e portare a scadenza è sicuramente una buona operazione. Sì, diciamo che il punto fondamentale è capire quando la situazione è abbastanza tranquilla da non lasciare presagire brutte sorprese, perché è chiaro che se la situazione non regge il sistema tocca poi ristrutturare il debito, questo come nel caso greco vuol dire perdere anche il capitale investito. Ma come si capirà che si è presa una strada in discesa, anche se solo all'inizio, lì converrà subito andare a comprare, la metto giù in maniera un po' grossiera, un po' grezza, andare subito a comprare titoli di Stato, perché i rendimenti, se li porti a scadenza, sono in questo momento spettacolari. È un problema per lo Stato italiano, ma non per chi li compra. E a questo proposito, fine febbraio, inizio marzo, Giovanni Tamburi, l'Italia deve collocare 50 miliardi tra BOT e BTP. Allora, come ci arriviamo? Cioè, quando è che capiamo se reggiamo o no? Voglio dire, se lo spread si mantiene a 470-500, no? Siamo a inizio febbraio, lei si preoccupa? No, anche perché secondo me il segnale più forte in questo senso è venuto dalla Spagna l'altro giorno. La Spagna ha avuto rendimenti alle aste ad un terzo rispetto a quelli dell'asta precedente, per cui vuol dire che il mercato in un paese come la Spagna, che onestamente secondo me non sta molto meglio dell'Italia, anzi forse sta ancora un filino peggio, ha riportato la fiducia, e secondo me ci arriveremo anche in Italia abbastanza rapidamente. Probabilmente potremmo anche farci un po' meno male a parlare sempre di cose negative, a parlarci addosso di disastri eccetera eccetera, per cui io ho l'impressione che i mercati ci arriveranno prima di febbraio a capire che non c'è default e che per cui conviene sottoscrivere quelle aste. Beh, questo è molto importante, perché in effetti l'asta spagnola è andata molto bene come domanda, e il rendimento è crollato, un rendimento dal 5% si è passati all'1,3%, esatto. Per cui complice anche un'altissima domanda, ma quello che stiamo dicendo è questo, lo dico in maniera molto chiara e seria: nel momento in cui il mercato, poi arrivano ultimi i risparmiatori, si rende conto che il pericolo, diciamo fallimento, la fine dell'euro è un pericolo ormai estremo, vanno tutti a comprare BTP e bonus e bot con questi rendimenti, con le borse che non dovrebbero essere così brillanti nel 2012. E grazie a me, ti ha sentito, Giovanni Tamburi è molto più ottimista di lei, eh? Sì, ma io non ho niente in contrario, però ti dico al signor Tamburi che ci risentiamo verso il mese di ottobre 2012, lui mi dirà, perché purtroppo il toro in quella situazione non andrà tanto bene. Io mi non gliela tiri però, se no le mando il gufo, che mandare un gufo all'astrologa No. Ma io tanto non mi formalizzo, mi mandi pure anche due gufi. No, non glielo mando, però dico insomma. Per cui lei resta molto... Io resto della mia idea, aggiungo anche che qualche monetina a fior di conio la prenderei d'oro. Lei comprerebbe l'oro? Sì, perché secondo me non molto, un piccolo... Giovanni Tamburi, al di là della gufata astrologica che adesso insomma, forse le farà rivedere gli asset, però quando lei va a investire nelle aziende, avendo 650 milioni di euro investiti, intanto che stato di salute o di non salute sta osservando, e poi qual è l'errore più classico che vede? Ieri Giulio Sapelli si diceva: ok, ci sarà un calo del PIL l'anno prossimo, però non colpirà tutti nello stesso modo, è una crisi diversa questa. Chi è in una filiera ad alto valore legata ai mercati che stanno crescendo, Brasile, Cina, India, Sudafrica, Russia, la sentirà poco. Lei che cosa nota? Esattamente quello che ha detto il professor Sapelli, cioè noi abbiamo finito i budget delle aziende in cui abbiamo una partecipazione nei giorni scorsi, tutte hanno dati molto positivi sul 2012, dopo aver chiuso un 2011 molto molto buono, per cui c'è chi va dal più 3 a chi va dal più 15, ma comunque sono tutti dati proiettati in senso positivo. Sono chiaramente però aziende molto internazionali, molto diversificate, spesso tecnologiche, presenti in paesi emergenti, presenti negli Stati Uniti, presenti in Asia, eccetera. Però certamente anche in Italia, anche nella tanto bistrattata Italia, ci sono centinaia di aziende, e noi grazie al cielo un pochino le conosciamo, che continuano ad andare molto bene. Tra l'altro alcune aziende stanno approfittando dei prezzi bassi per fare acquisizioni. La maggior parte delle nostre partecipate nel corso del 2011 ha fatto acquisizioni, e lei sa che fare acquisizioni a prezzi bassi in un concetto industriale consente delle sinergie, e per cui già dal 2012 ci potranno essere gli effetti positivi delle sinergie. Io devo chiudere, però mi dici in una battuta, Tamburi, qual è l'errore più classico che vede fare dalle imprese italiane quando le va a osservare? Non essersi diversificate, non diversificare territorialmente, non investire in tecnologie, nuovi mercati, nuovi prodotti. Hai detto niente. Allora, grazie, buon Natale a Giovanni Tamburi, mi sto legato al presidente del TIP, Tamburi Investment Partners. Buon Natale e auguri, anche se non so se si possono fare l'astrologa. Grazie a Mirti, un ringraziamento a Mauro Del Corno e Barbara Bianchi per l'assistenza anche quest'anno in redazione. Da Sebastiano Barisoni l'auguro di passare buone feste. Noi ci risentiamo il 26 con una puntata sul turismo, sul settore agroalimentare, molto più tranquilla e più calma. E buon Natale con o senza spread a tutti. Radio 24. Il Natale si sente.